la prima volta. A cura di Cristina Carpinelli. I was bruised and battered, I couldn't tell what I felt. I was unrecognizable to myself. I saw my reflection in a window and didn't know my own face. Oh brother, are you gonna leave me wasting away on the streets of fear? È il 24 febbraio del 1950. In una casa, in un piccolo sobborgo di Filadelfia, nasce Steve McCurry. I was born in Philadelphia, Pennsylvania. Sono nato a Filadelfia nel 1950. La mia famiglia ha origini scozzesi. Mio padre partì dalla Scozia e arrivò a Filadelfia. Lavorava in un'azienda, era un ingegnere elettronico. Io ho ricordi, tanti ricordi legati a Filadelfia, perché è lì che ho trascorso i miei primi 20 anni di vita. Monday happy days, Tuesday, Wednesday happy days. La famiglia McCurry è una famiglia della media borghesia americana. Non tutto è oro, non tutto è una passeggiata. Steve è un bambino vivace, va in una scuola pubblica, cresce e cerca di capire che cosa vorrebbe fare del suo futuro. Come tutti gli adolescenti, pensa e sogna in grande. Vorrebbe, si dice, andare in giro per il mondo. Per questo, forse, sceglie di studiare fotografia e cinema all'università. Fino a dopo l'università, però, dei viaggi tanto sognati neppure l'ombra. Farà foto per il giornale universitario e poi per altre riviste, ma non è però quello che sognava. Well, I started photographing in 1972. Ho iniziato a fare foto nel 1972 e ho amato molto l'idea che si potesse aprire la porta di casa e cogliere in uno scatto la vita. Ho sempre pensato che la fotografia fosse un punto di vista diverso per osservare la realtà. I could simply walk out the door and take photographs in a very simple way and just wander and observe the place that I was in. Così, dopo i 20 anni più o meno trascorsi a Filadelfia, Steve decide di partire per l'India. Sarà la prima volta. La prima volta che incontrerà la sua passione, la prima volta che andrà incontro a un tempo dilatato. Un tempo che insegnerà a questo ragazzo americano dagli occhi grandi a guardare il mondo in un modo diverso. Se ne accorgeranno a National Geographic. Le sue foto lentamente entreranno nella storia di ognuno di noi e resteranno impresse nella memoria collettiva. Del suo lavoro, dei suoi viaggi parlerà così. Ho viaggiato in India, Cambogia, Libano. Ho concentrato la mia vita sui luoghi che mi interessavano e che ho creduto potessero avere storie interessanti da raccontare. Non mi ci è voluto molto per capire che cosa mi piaceva e che cosa volevo fotografare. E quando l'ho capito, ho concentrato tutto il mio tempo in quelle storie e in quei posti che coincidevano con questo interesse. La vita è troppo corta per sprecarla, per sprecare tempo, e per me ci sono cose che valgono la pena di essere raccontate. I've done very few assignments that I didn't feel actually connected to or passionate about. So life is too short to waste time, and I think that for me, McCurry alla fine porterà a casa premi prestigiosi. Per due volte verrà premiato con il World Press Photo Awards, il Nobel della fotografia. Ma non sarà quello il vero premio. L'unico e più importante, come dirà lui stesso, è quello di aver instillato nella testa di alcuni l'idea di un'esistenza di un mondo diverso e altro rispetto a quello in cui viviamo. There's no more colorful place in the world, I think, than India. I mean, absolutely takes your breath away. So non c'è posto più bello e incredibile dell'India per un fotografo che fa foto a colori. L'India è un posto pieno di colori. Uno degli scatti che colpirono la mia attenzione, ad esempio, riguardava quelle donne nel deserto che, colpite da una tempesta di sabbia, si ripararono stringendosi in gruppo tra loro. I loro foulard volano, arancioni nel vento, e loro restarono in cerchio a cantare. L'India è un posto magico dove basta girare un angolo e trovare 10 scatti meravigliosi. Nulla è scontato. Ci sono colori forti, fiori, alberi abitati da uomini, bambini col viso dipinto. Puoi trovare la gioia e la desolazione quasi nello stesso angolo di marciapiede. C'è qualcosa che non hai mai visto di magnifico e al fianco c'è qualcosa di orrendo. I think the joy of photographing in India is you never quite know what's waiting for you around the next corner. There's always the unexpected, there's always something which completely be delightful, something which be horrifying, something which you've never seen before, something wonderful, something ancient, something profound, something always ready to strike you. La prima volta. A cura di Cristina Carpinelli. Questa è la prima volta di un uomo che è partito da un sobborgo di una città americana, ha attraversato il mondo con la sua macchina fotografica, un paio di scarpe comode e una valigia di amore per il prossimo. Steve McCurry, il fotografo più famoso al mondo, quello che ritrasse tra i tanti il volto di una ragazzina afghana, facendoci entrare in una terra dove lui stesso riuscì a penetrare travestito. McCurry non è simpatico, non è uno che si lascia andare a fiumi di parole quando lo intervisti, però è uno che quando ha in mano la macchina fotografica riesce a fare miracoli, di tecnica certo, ma soprattutto di emozione. Well, I started photographing in 1972 and I loved ho iniziato a fare foto nel 1972 e ho amato molto l'idea che si potesse aprire la porta di casa e cogliere in uno scatto la vita. Ho sempre pensato che la fotografia fosse un punto di vista diverso per osservare la realtà. And take photographs in a very simple way and just wander and observe the place that I was in. Quanto è cambiato, e se è cambiato, non solo il suo modo di fare fotografia, ma il suo modo di relazionarsi alle persone che fotografa, quindi tutto l'insieme del suo lavoro e se stesso rispetto all'inizio della sua carriera? Well, I don't think I'm that much different. I don't think there's much difference between now and the beginning of my career. Non credo di essere cambiato molto da ieri a oggi, cioè non sono tanto diverso professionalmente oggi da ieri. Continuo a viaggiare e a fotografare. Il vero cambiamento è stato quando avevo neanche 19 anni. Andai in India, partii per l'India. Volevo fare foto, ma volevo anche prendermi del tempo. E questo accadde. Restai in India per un anno. Viaggiai molto, molto lentamente e imparai in quel viaggio ad aspettare. Imparai ad aspettare e anche a fare foto. All'inizio ne facevo tante. Poi imparai a lasciare che le persone si abituassero alla mia macchina, che se ne dimenticassero. Solo allora iniziavo a fare le foto. Ed era in quel momento che veniva fuori l'essenza, l'anima delle persone fotografate. Io devo molto all'India. È un paese che mi ha fatto crescere, mi ha aiutato a trovare una strada. Se lei mi dovesse chiedere qual è il paese tra quelli che ho girato che amo di più, le risponderei l'India. Poi amo tutto, l'Asia per intero, l'Africa. Qual è la sua filosofia nello scatto? Che cosa si aspetta quando scatta una foto? Well, I think that you have to. I think the most important thing I can do. Prima le voglio dire una cosa. Io credo che le cose più importanti della mia vita siano state viaggiare, esplorare, osservare. La mia vita è stata attraversata da immagini spettacolari, paesaggi incredibili, culture diverse che incontravo e studiavo, persone che ho incontrato. E tutto questo è diventato la mia vita e quindi la mia filosofia di fare foto. La vita che ho vissuto, le persone che ho incontrato, le culture che ho conosciuto hanno influenzato i miei scatti. Io sono un fotografo perché loro, tutte quelle persone che ho incontrato, esistono. Io sono diventato, ma forse lo sono sempre stato, un fotografo dei non visti, dei non ascoltati, degli ultimi. Questa è tutta la mia vita. Io vorrei poter essere ricordato per le foto e per la curiosità che hanno innescato in chi le guardava. La fotografia come giornalismo racconta storie. Io ho potuto scegliere di raccontare quelle degli ultimi e credo che questa sia la cosa più bella ed emozionante del mio lavoro. I think one of the great things about journalism and photography is that we're able to tell stories about places and people that otherwise wouldn't be reported on. I think that's one of the great things about my life and photography. Non si poteva andare in Birmania e McCarrie ci andò. Rimase due giorni con la leader birmana Aung San Suu Kyi. La fotografò e la ritrasse nella sua vera essenza. Una donna, come disse lui stesso, molto femminile, elegante e estremamente forte, capace di infondere coraggio alla sua gente. No, scusa, guarda la fotografia. Sembra anche un ragazzino. Questa è la storia di Steve McCurry, la storia di un ragazzino mezzo scozzese, mezzo americano, che ha coltivato il sogno di vagare per il mondo, andando piano e dando voce agli ultimi. Per caso no, anche lui sparava via, ma forse il gioco sarà fatto stanco e non se neanche accorto che moriva. Guarda la fotografia, sembra neanche. La prima volta termina qua. Io vi ringrazio per averci seguito, vi rinnovo l'appuntamento come sempre a domenica prossima alle 13.30. Potete scriverci all'indirizzo laprimavolta@radio24.it, trovate sul nostro sito le puntate precedenti e anche questa ovviamente scaricabili in podcast. Ci risentiamo domenica prossima, buona giornata a tutti da Cristina Carpinelli. La fotografia, la fotografia, la fotografia. facce false della pubbliciteria. Tutto il resto è tutto brutta musica fatta solamente con la batteria. Tutto il resto è